Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. La ricerca dell'energia perduta continua questa sera riprendendo un binario che abbiamo esplorato solo parzialmente, ovvero la regolazione del clima con l'uso del verde. Per l'occasione è tornato a trovarci Stefano Corgnati, ricercatore di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Torino, col quale avevamo già affrontato il tema delle serre bioclimatiche. Mentre questa sera ci occuperemo di verde parietale. Buonasera Corgnati. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, che cos'è questo verde parietale? Ma è una tecnica largamente diffusa in Italia, ma direi in tutta Europa. Il nostro riferimento può essere quello del verde rampicante, dall'edera alle viti. Quello che vogliamo però affrontare questa sera è analizzare questo tipo di verde non con la visione classica che vede il verde con pure finalità estetiche, ma è invece quella di capire come il verde può essere una opportunità di risparmio energetico. E questo è legato sostanzialmente all'effetto schermante che hanno le foglie verdi e alla possibilità delle foglie stesse di mettere in atto processi di evotraspirazione che riducono in modo significativo sia l'innalzamento della temperatura e parallelamente migliorano per effetti di filtraggio anche la qualità dell'aria. Quindi fermano la radiazione solare intanto, ma poi l'evaporazione, tutti sappiamo o dovremmo sapere che l'evaporazione dell'acqua è un processo che sottrae calore, perché per passare dallo stato liquido a quello di vapore l'acqua sottrae appunto calore, incamera calore. Questa normale attività che fanno tutte le piante, quella della traspirazione, quindi raffresca. Perfetto. Ecco, quindi una tecnologia vera e propria di risparmio energetico che ha anche una capacità adattativa, che è qualcosa che si cerca di introdurre nelle tecnologie che artificialmente vengono utilizzate per controllare, per esempio, lo scambio di radiazione. Abbiamo parlato in passato di alcuni vetri che sono in grado di riflettere selettivamente l'infrarosso. Ecco, qui c'è una capacità del genere che è connaturata nelle piante. Esatto. In questo caso si parla proprio di tecnologia adattativa di risparmio energetico, in quanto il verde produce uno sviluppo massimo del manto fogliare proprio nel periodo estivo e l'effetto di evotraspirazione è proprio massimo quando è massimo l'irraggiamento solare. Poi facciamo l'esempio del verde caducifoglie, parallelamente durante il periodo invernale le foglie, quindi il manto fogliare, è sempre più rado e conseguentemente l'assenza del manto fogliare permette di garantire all'edificio di fruire degli apporti solari che, a differenza di quanto avviene durante il periodo estivo, sono un guadagno termico per l'edificio, quindi da avvantaggiare durante il periodo invernale. Quanto si risparmia di energia? Gli studi che abbiamo condotto nel nostro dipartimento hanno mostrato come la capacità di riduzione del carico solare dipende grandemente dalla densità del manto fogliare. Certo. Ciò premesso, possiamo dire tranquillamente che le comuni specie di verde parietale possono portare ad una riduzione del carico solare rispetto ad una parete equivalente, perfettamente nuda, che varia tra il 30 e l'80%. Ovviamente tutti immaginiamo che possiamo far crescere un bel rampicante davanti a casa nostra, però ci sono anche delle altre soluzioni? Sì, si sta sviluppando tutto un mercato e tutta una tecnologia di verde cosiddetto artificiale. Cioè vengono prodotte dalle aziende le strutture portanti, il terreno e le piante da impiantare nel terreno stesso e in questo caso quindi la differenza fondamentale tra un verde classico rispetto alle soluzioni industriali è essenzialmente legata al fatto che la soluzione industriale porta con sé una quota, uno spessore di terreno significativo e che quindi mette in gioco anche tutte le sue proprietà termofisiche, di capacità termica e di conducibilità termica. Fisicamente di che cosa si tratta? Di pannelli praticamente? Sì, possono essere pannelli oppure possono essere griglie contenitive di terreno. Possono essere messe totalmente in parete oppure leggermente separate dalla parete stessa, creando una situazione che è molto simile alla tecnologia della facciata ventilata, cosiddetto, cioè esiste un filo d'aria tra la parete dell'edificio e questa parete artificiale verde, e questo consente ovviamente di avere un disaccoppiamento tra la dinamica dell'edificio e questo elemento aggiuntivo che serve, per così dire, a proteggere dal punto di vista termico l'edificio tradizionale. E questo funziona però anche d'inverno, perché è una specie di cappotto. Esattamente. Grazie a Stefano Corgnati. Grazie a voi e a risentirci a presto. Bene, vale la pena di far notare che c'è chi utilizza le superfici offerte dal verde parietale per coltivarci ortaggi. Insomma, se volete risparmiare energia e coltivare l'insalata, si può fare. Questo è tutto, domani è il 1° dicembre e daremo perciò qualche suggerimento, sperabilmente non ovvio, per regali di Natale a risparmio energetico. Scriveteci a mrkilowatt@radio24.it. Buona serata.